chissà che mano, per essere buttati in mezzo alla nebbia, con chi alla nebbia se ci ha rassegnato, ed aspra le curve e vestiti umili. Cuore che batte in un mucchio di sabbia, su fette d'asfalto dal fondo ceduto, due levre ogni tanto si fermano lì. Si fermano a urlare. Siamo qui, angelo della nebbia, guardaci, buttaci solo un po' di colore. C'è un piatto pieno di vita, puntata in scommesse già perse in partenza, ma prima di tutto van tutte giocate, che l'allibratore si diverta un po'. Senti proprio tutto bene. Corpi attutiti e gocce che provano a bagnarci dentro, due lepri si danno una bella scrollata e al prossimo campo si fermano un po'. Si fermano all'aria.